il problema, per esempio, abbiamo, ne abbiamo un esempio qui nel Pecorino. Il Pecorino dov'è? Innanzitutto prima si diceva che era un derivato, un vitigno simile al Riesling. Non lo è. È un vitigno asettico specifico, il Pecorino. E veniva coltivato lungo la Salaria in particolare, nelle zone tufacee, e veniva praticamente veniva sfruttato il riscaldamento della roccia che contribuiva alla maturazione del vitigno e il rilascio. Sì, durante la notte magari. E si avevano, si avevano delle uve che avevano 16 gradi di zucchero, 16, e davano dei vini di 10-11 gradi quando erano buoni. Altrimenti si avevano, più si andava in alto nella salaria, più si avevano vini di 9-10 gradi di vinelli. Della natura. Questi viticoltori di Offida hanno apprezzato la qualità di questo vitigno, di questi vini, hanno preso e hanno salvato il vitigno Pecorino portandolo qui. Però il vitigno è passato da una zona più facile, no, poi non so, negli 800 metri di altezza, sono da perché non so abituato, sembra assurdo che non so più abituato, con un sole lì e molto mettevamo stasera dei cosi con 25-26 qualche volta maratona, sopra 20, non corso, questo Pecorino, cioè farà 15-14-15 quest'anno, poi ci ha preso, ci ha preso questo qui, vabbè, guarda, questa botte, vabbè, questo, questa botte di vino, noi, io e mio figlio, praticamente mio figlio mi diceva che ne facciamo di questa botte, perché è ignorante, come si dice dalle nostre parti, no? Un vino proprio carico. E sembrava non commestibile. Allora mio figlio diceva che bisogna fare a sta botte. Dico, guarda, lascialo maturare. Non lo pensare, non la pensare a sta botte. Io quando ho visto l'alcolicità e l'acidità totale, questo vino, anche se fa 15 gradi, faceva 7,80 di acidità totale quando abbiamo fatto l'analisi. Che è buono! È buonissima, 7,80, questo lo conservi, diventa un liquore tra 3 anni e lo conservi. Però avete perso l'aroma di base e il pecorino. Sì, la freschezza. Ma sai come è invecchiato? Come? È come di batteria. Questo rapporto tra grado alcolico e acidità, ve la racconti? Ma chi è con la seconda? Non lo racconto.